colazione ti mangio una pizza, no? Va bene così. Ma a me è subito pronto. Vediamo cosa. O se fai un giro di lavoro che quello vuole fare di per la variata o mangiamo. Così mi deve fare. Bene, a tu. Ciao. Se lo sanno, quando è andata la gubicuria, dove abitavo prima ti arrivava un bel forte a sorso. Perché prima gli abitava la Fedolce. Capo. Non è che arrivi male, no? Già ti dai da fare. Cappa. Ma la Tinozzi si aveva avuto durante un'altra gubicuria guai. A casa di babbo. Oh, era arrivato un po' davvero, Era lì, arrivano tutti forte qua. Ecco aperto. Cappa, vabbè, sono dentro Sassari. Altro bastava chiedere ai muratori, quando sono saliti sopra, a smontare tutta quella attrezzatura di quello che è morto. E invece ho fatto l'antenna alla papola, da gratis. Troia! Cavallo, patatine fritte, la morte sua, oh, scagli di grana, A tu, perché non ti ventare mai alla Tenoccia dove c'è il grattacielo? E te prendi l'ultimo appartamento? Ah, se te l'hai in Ibiza? Lì ci fosse. Lì, in punto del mondo, l'antenna del mondo, e poco fa anche, a Muglia. Allora, meglio niente lì. Non c'è andare quel palazzo che è sotto pieno d'acqua, mi. Se no fai la fine di... del figlio di Simba, mi. Gli è sceso un fulmine, gli è sceso. Ha crepato tutto il muro e anche l'ascensore si è dovuto pagare. Magari abitare al grattacielo di Santa Maria. Andai, via andai, che t'accorciami. Poi... un bel appartamentino lì sull'ultimo piano. E oggi lì c'è un mio collega, va bene, eravamo colleghi, adesso ce la pensiamo tutti e due. E ti dico una cosa, il giro dei Bogani si hanno bruciato un paio di due o tre macchine. Ma stanno in bicicletta. Chi mi bisogna stare attenti? Evidentemente ha fatto qualche sgarro. Qualche sgarro, qualcosa l'ha fatto. E tu vivi con un gatto che non so che gli avessi parcheggiato, a meno che non ti avessi brigato un garage. No, ma il capo l'avrei lasciato dove adesso. Capo, capito. Vedi che io li piccioli che sono i kiwi, proprio a Santa Maria di Pisa. Capo, io ce l'ho a casa. Ce l'ho qua, dove abito io, ce l'ho. La veranda diciamo, l'avevo lasciato qua e mi sono andato lì a Santa Maria, due risate di fare. Sì, ci abita Davide Baranautica in quella palazzina, ancora. Mi sembra che era al settimo piano, se non mi ricordo male. Tanto non aveva sentito il filo perché se la metteva sopra il tetto, guai. L'avrebbe buttato giù anche a lui insieme alla macchina. Vabbè, cosa ci vuoi fare? Anche lì bisogna fare gli occhi aperti quando si va lì. Io ci sono andato due volte lì, sotto il grattacielo, perché ci abita questo mio collega. E non ho avuto un dubbio. Anche come se ti muovi nella macchina, veramente in giro alla macchina. Ma sono tutte leggende metropolitane. Sono leggende io. E qual è la leggenda metropolitana? In Ghisugo non è una leggenda. In Ghisugo tra buon e buon davvero. Lo che credi, Eugenio. Allora, amico mio, si è fatto 3-4 bussi. E la chi è un collega mio, non è cazzo chi per un grattacielo brutto. E poi Bruno, ci vuol dire che ha fatto un anno in Ghivi. Perché tu non hai bruciato le macchine. E abita ancora lì. C'è casa Giulia. Non abita proprio nel grattacielo. E io? Lì c'è una legge, c'è. Allora funziona così, funziona. Se sei prepotente quanto vedi, tu lo fai a me e dopo io lo faccio a te. Tu lo fai a me e dopo io lo faccio a te. Se sei prepotente come te, vedi. Qualcuno è giunto alla disperazione, la bocca pure popolare gli andati a casa, in chiave. Non vedo a buffo un anno. E allora il tuo collega lo sta pagando il condominio. Vabbè, pagando il condominio. Capito? le signore mancano, certo, come bisogna dire? Più dopo è un posto difficile. A Girusì ha derubato neanche e tutta gente. È tutta gente a chita maniera, un poco che non comprende nulla, mezzo dolcici, mezzo così. Come ti dire, magari fare anche io così abbia di buon fuoco la macchina. Infatti è così. Va bene, vai. Ciao a tu. Ciao Alessio, Eugenio. Ci ascoltiamo le prossime. Io lo chiudo qua e me ne vado a papà. Ciao, avanti Eugenio. Sì, a voi anch'io, vai, che pronto, vai. Ciao, ciao, ci sentiamo domani ragazzi. Ciao, buona notte a tutti, io spero che vado a mangiare, che è pronto. Ciao, tante cosce calde a tutti stanotte, ciao. Ciao, ciao, ciao, ci sentiamo, ciao, ciao G. Ciao, fra, ciao. Ciao, fra. Le cosce calde, se no sono fredde non va bene, ciao. Ciao, fra, ciao, ciao, fra. Ciao, ci sentiamo, avanti, buon po'. Ciao, ciao, G, ciao, fra, ci sentiamo. Alle prossime. Ok. Qui siamo arrivati, mi sembra, solo due, comunque. Ma magari che vi c'ha zia anch'io per un grattacielo? Qui ci abita Davide Bavanautica. Insieme alla sorella Lidia, non so se abita ancora lì. Perché si era sposata, poi il marito è morto. E quindi non so se... se abita in un'altra parte. Comunque lì ci abita ancora Davide, ci abita... l'autista portava la birra, portava con un camioncino. Ti stavo dicendo, ma parlava al baracchino. Sì, parlava al baracchino. A casa sua c'è la baracchina ancora. Sta tutto buttato lì, antenna magnetica, antenna boomerang, c'è la baracchina ancora, tutto non vado in tigre. E non entra? No, non so, io già la dico che sta più entrando, sarà almeno 15-20 anni che non entra. Ciao, boh, e dopo ha mai detto Simba, gare che c'è Simba? Simba è quello che è mutuato lì, lo stesso, il figlio di Simba, e anche lui, abitavano in quella palazzina lì. Non in quello dell'altro, in quella arancione. In pratica ha installato lì la Mantova, perché dove per salta io, insieme a Gianni Bravo 2. Siccome lì ci sono il muro è doppio, è capito? Abbiamo messo le gaffe, abbiamo messo il cemento bene, eccetera, eccetera, ha prestato l'antenna, ha messo i tiranti. Quanto è passato? 7 mesi, un anno, mi riusciva a fottere la limite. Un giorno è arrivato a strappare, l'ha preso in pieno, l'ha preso. L'antenna gliel'ha fatta, a metà gliel'ha fatta. Ha scaricato dove c'è l'ascensore, ha scaricato lì. Da quel giorno l'ha staccato tutto. Quindi figurati tu, lì sotto è tutto pieno d'acqua, mi sa che c'è una falda d'acqua lì da sopra. Me lo posso immaginare. E dove c'è acqua, già lo sai che scarica già. E... è come avere la massa a terra, hai capito? Cari uguale. Già lo so, aspetta, mi fai andare un attimino in bagno. Che ti sta dicendo niente, vai in bagno, piscia tranquillo, non c'è problema. E Antonio, dimmi tutto. Io mi ricordo sempre lì a Santa Vibita, c'era questa antenna, questa mantova tagliata, c'era. Ed era in una di quelle case lì. Nella tirata a metà era in pratica, allora dal fulmine, dopodiché quando hanno sistemato la palazzina ne hanno staccato tutto, capito? Hanno fatto tutto in tabacco nuovo, e poi hanno pensato i ripetitori TV, cioè TV, e quei ripetitori telefonici, capito? Ne hanno staccato tutto e basta. E sanno che sono ancora in piedi quei ripetitori, è molto strano, evidentemente hanno messo qualche gabbiotto perché sennò questa cosa sarebbero già volati. No, quelli sono fatti bene, no, non è roba così, no. non è roba così, quella è roba fatta bene. No, no, è due. E Mario Mansell, non sa proprio più nulla, gà. Perché c'è passato un coso lì, mi capito, il periodo di Natale. Il fucile a cane mossa c'è passato. Che bastarde. Anche quella è una roffia, cazzo, baracchini, un chili. Solo l'antenna basta, non c'è bisogno neanche per farli. Tutti gli stanti l'antenna, non è attiva. Il periodo di Natale te l'ha buttato in terra. E lui se aveva saputo qual era la via di là dura Ianna, non ti preoccupare. E cosa ne sai chi è? È la via, forse la... come si chiama la via? Adesso non mi ricordo come era attiva, quello l'avevo messo fuoco all'alfetta due volte. Quindi figurati, Mario la macchina non l'aveva mai messa a fuoco, però l'hanno impariato. L'antenna ce l'ha ancora, ma c'è l'antenna, la stazione, c'è tutto. C'è il manto, ma pensate che è messo in casa sua, pronto a installare. Capito? Solo che quando vuoi installare la madre, la installiamo. Solo che cosa ci vuole? La sola installarla. Fammi impallinare, non la staranno. No, quando la piazza già non impallina di nulla. E vabbè, ma... non mi fido molto io, capito? In quella zona di Toppia specialmente, la carità. Lì c'è di tutto di più, c'è in quella zona. Capito? E poi Cibi non c'è solo lui, mi c'è un altro Cibi che è nelle palazzine verdi. Anzi, ce ne sono tre addirittura. C'è lui e... Salvino Lollo c'è e un altro pure, che non mi ricordo come nativo, e fa l'elettricista. Sono tre cibi in tutto, sono uno la pazza verde e lui era marlon e l'altro mi sembra la bianca, adesso mi ricordo. Perché era ben intese. C'era anche mio zio, c'era, ma lì, va, lo sta zibendo, Lorenzo. Quindi figurati. Uia, se guarda, se avesse potuto farlo cadere da quel palazzo lì, adesso quel altro palazzo che casa popolare che sia stata tranquilla, al limite lì al monte, sarebbe stato bene, questo è poco ma sicuro. Lì vicino invece le cose a me. Il centro vaccinale, lì sarebbe stato di lusso, sarebbe stato. Lì c'è il terrazzo che è rettangolare, quadrato, non fa altro che installare due staffe e gli andenti. Chiappa, io sicuramente prima o poi verrà il pallino di rimetterla. E quando riverrà il pallino, si indagherà, quando vuole, deve cambiare tutti e tre i cavi. Deve fare un po' di spesa in pratica, cambiare i tre cavi di discesa, perché lui c'aveva l'antenna 11:45 un dipolo, poi c'aveva la Mantova e l'antenna la Diamond per la V e per la U e basta, tutto allo stesso palo. Scappa, sì. Io mi ricordo che usciva un bel forte da lì, mi ricordo che Mario arrivava un bel forte, ma forte però. Già dopo facciamo anche modo che usa voglia, se ho tanta. Già dopo che usciva forte da lì. Quella posizione che era micidiale. Parlava tranquillamente con Marco Mera, ma genere, adesso vai a ciappare due, niente. Ormai in quella zona a Centro Sardegna non c'è quasi più nessuno. Me lo ricordo io che... E poi... che cosa c'è la via pure. Mi ricordo che usciva un bel forte lui da lì. Ma forte però me. Mi fu 2001, l'MK... con la transisto, anzi il 2002 ci aveva modificato la meta, 700 watt tondi tondi tirava fuori, un 4 watt l'ingresso. Io già me lo ricordo già. Tu immaginati quando schiacciava portante la luce del salone, cioè della camera dove modulava, si abbassava, lo sai, leggermente. dovevi vedere cazzo com'era, è una cosa allucinante. Il primo giorno che quando gli ho fatto la modifica gli ho messo una BM17L agganciata alla ringhiera. Quanto ho fatto? Quindi il primo passaggio tutto bene, secondo, terzo, quarto, al quinto ho cominciato a vedere già la carica rossa come il coso, come la griglia, confuso plastica e cosa. E beh, no, resiste. Un po' a voce da inchive. È un punto buono quello, meno, ti credi? Anche in campagna dove sono io, che di fronte è un punto buono. Io avevo la Super Regibus spiazzata e l'ho molto più basso, però ci ho fatto lo stesso, perché c'è tutto la neda, palatore saperto. Figurati. Ma perché tu hai abitato lì per un periodo? E io... Ciappa, uiuiui. Io ho fatto 7 mesi, non di più. Poi da lì sono andato a abitare in Corso Vittorio Emanuele e sono andato tutto in Corso Vittorio Emanuele. Poi da lì, da Corso Vittorio Emanuele, è stato lì 4-5 anni, qualcosa del genere. E un togliaio era. Da lì poi sono andato via San Donato, la manca l'ho staccata e me l'ha sopportata in via San Donato. Capito? Dopodiché da lì agli ubriachi di bere, io la manca vado a San Donato direttamente a casa mia. Mamma mi ha dato le chiavi, te levi le chiavi, vai a abitare a casa tua che almeno sei più tranquillo, verrà. La zona fa schifo, mi ha detto. Ma tu dici che sono andato a abitare qua? Mi ha fatto durato, vedi proprio vicino a me, ui, roba di sberle avevi bigliato un cazzo da me. Ehi, non ci abitavo solo io lì, non ce lo sai. Ci abita anche un sacco di gente di via La Marmora e cose del genere, non ti credi che c'ero solo io? Sicuro che da qua, a questi tempi, quando eri Corso Vittorio Emanuele ti ero arrivato a bomba proprio. Sì, quello sì, ma ero in alto, era donata, tutto aperto, immaginati che era una bella zona quella. Ho messo la Grand Prix, hai visto quanto è durata? Ma ho occupato 3 mesi, non hai visto la bicchiera, tornata. Gli ho dato bella antenna, mi ha dato, gli ho detto, Torino. Cosa? Perché cosa c'ha con l'antenna? Tu perché è gatta, gli ho detto, non ho capito, gli ho detto, un'antenna che l'unica cosa di quella che c'aveva che potevi mettere di otto radiali. Hai capito? Posso dire ti metti nel 4 o potevi mettergli nel 8. No, Antone, mi è arrivata la pizza, ci sentiamo dopo. Ehi, d'accordo. Hola. Hola. Hola. Gianni, ci sei?